in primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli e eccoci sulle prime pagine dei giornali che oggi hanno, diciamo, più o meno tutti gli stessi argomenti ma danno loro pesi diversi. Il Corriere della Sera come fotonotizia, quella che forse avrete visto, anzi sicuramente avrete visto anche in televisione su internet, un aereo dell'Alitalia con dietro le nubi di questo incendio che pare doloso. E c'è un titoletto di fianco che registra quello che ha detto Renzi, cioè intollerabile, anche se poi questo è stato veramente, adesso vedremo quanto doloso fosse l'incendio. Incidenti, ritardi ovviamente in caso di un incendio così vicino all'aeroporto sono una cosa naturale, non sarebbe forse neanche questo il problema più grave dell'Alitalia o di Fiumicino, ma vedremo insomma nei prossimi giorni quali saranno le conseguenze delle indagini. Il titolo principale del Corriere della Sera riguarda la vicenda Azzollini, cioè sapete che in Senato è stato negato con voto segreto e l'arresto di questo senatore del nuovo centrodestra, sul quale pesano accuse molto gravi, prima di tutto quello di bancarotta fraudolenta. Ma forse ricorderete alcune delle intercettazioni sulle quali si basano alcune di queste, queste accuse, poi appunto la bancarotta. Azzollini era a capo di un istituto sanitario e io non vorrei neanche ripeterle alcune cose, però appunto c'erano in queste intercettazioni degli insulti pesantissimi, per esempio verso il personale sanitario che in parte era composto da suore. In ogni caso il titolo, il PD salva Azzollini e si spacca, perché la dichiarazione di Deborah Serracchiani, che oltre a essere governatore del Friuli Venezia Giulia è anche vicepresidente del PD, è stata che il PD a questo punto dovrebbe chiedere scusa ai suoi elettori. Ma attenzione, perché invece Guerini, altro esponente di punta, altro è anche lui vice segretario del Partito Democratico, ha detto no, abbiamo valutato le carte e abbiamo fatto bene, e per questo sicuramente per una volta il titolo più che esagerato riflette proprio la situazione, perché se due vice segretari dello stesso partito dicono una dobbiamo scusarci e l'altro no, abbiamo fatto bene, oggettivamente il PD in questo momento appare spaccato. Vi segnalo un'intervista di cui leggeremo poi alcuni brani di Sergio Rizzo al sindaco di Marino, sindaco di Roma Ignazio Marino. La frase scelta per titolare l'intervista in realtà viene un po' estrapolata, un po' forzatamente direi, perché non è il cuore dell'intervista, però appunto il titolo è: quelli del partito mi chiamavano per posti e cariche, quindi un altro attacco insomma laterale alla gestione del PD, che è il partito di Ignazio Marino, ricordiamolo, e che comunque appunto lui dice che quello che di marcio c'era nel PD romano era anche dimostrato dal fatto che molti esponenti poi all'inizio, prima che scoppiassero gli scandali, cioè 2 anni fa quando lui è stato eletto, avevano subito cominciato a chiamarlo per pretendere poltrone. La prima pagina del Sole 24 Ore apre su un'intervista che ha solo il Sole 24 Ore, fatta da Paolo Bricco, che è il nostro collega, grande esperto di politica industriale e di industria in generale, che ha fatto a Pesenti. Sapete, ieri abbiamo dato la notizia di questo accordo di Italcementi che ha ceduto ai tedeschi di Heidelberg, creando così il secondo gruppo al mondo del cemento. È stato un accordo che come sempre ha scatenato i commenti del tipo: i gioielli industriali dell'Italia vanno all'estero. E questo che è il senso dell'intervista di Paolo Bricco, quello che viene fuori dalle parole di Pesenti è un accordo industriale, ora la nostra società è più solida, ha vinto l'industria. Ieri tra l'altro tutti i titoli del comparto sono andati bene e in particolare Italcementi, come poi ci spiega Marigia Mancano a pagina 3, ha guadagnato addirittura il 49,5%. Sole 24 Ore è l'unico giornale che tiene in prima pagina anche oggi la questione della sanità, che ieri e l'altro ieri era dappertutto, oggi sembra passata in secondo piano, quando in realtà naturalmente tutta la questione dei tagli è ben lungi dall'essere risolta, perché sappiamo che sono stati approvati per 2,3 miliardi, ma Gutgeld aveva annunciato che i tagli ammontano a 10 miliardi, con subito la reazione stizzita del ministro della Salute Lorenzin, che aveva detto no, 10 miliardi assolutamente no. Insomma, la questione è aperta, il Sole 24 Ore ci torna con un articolo una pagina 4 richiamato in prima pagina, ecco i tagli delle regioni, e poi si ricomincia a discutere sulla proposta fatta anche ieri. Abbiamo citato l'intervento di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, sul Messaggero, sulla possibilità di istituire in Italia anche un sistema di fondi integrativi per appunto fare bilanciare un po' tra sanità pubblica e sanità privata. C'è un, appunto, un focus sulle regioni, quindi oggi con 385 milioni la Lombardia guida la classifica dei risparmi, seguita dal Lazio 222,5. Quindi quando Beatrice Lorenzin dice, come ha detto spesso nei giorni scorsi, le regioni hanno già dato, appunto qui ci sono i numeri per spiegare dove i risparmi sono stati effettivamente già introdotti. Vi segnalo anche, richiamato in prima pagina, un intervento di George Soros, forse uno dei finanzieri più famosi del mondo, ma anche uno degli uomini più ricchi al mondo. L'Unione Europea crei un'agenzia di asilo e migrazione. Lo spunto è la crisi dei migranti, e lo vedremo anche su altri giornali, quello che sta succedendo nel tunnel che unisce la Gran Bretagna alla Francia, e appunto come sempre diciamo, il fatto che, anche se non ne parliamo, la questione delle migrazioni dall'Africa verso l'Europa è naturalmente più che mai aperta, e lo sarà tra l'altro sicuramente per tutta l'estate, perché sappiamo che le condizioni del mare sono più favorevoli alle traversate dei trafficanti di uomini. La Repubblica titola sulla vicenda Azzollini: niente arresto per Azzollini, salvato dal PD. E qui ci sono molti molti commenti, c'è il punto di Stefano Folli, il voltafaccia Dem nel nome di Alfano, naturalmente il riferimento è al fatto che Azzollini non è del PD ma è del nuovo centrodestra, che è principale alleato di governo del PD. E poi sempre in prima pagina, poi lo troverete, questa vicenda molto poco chiara, ma sicuramente per chi segue tutte queste questioni internazionali è anche interessante per decifrare questo puzzle del terrorismo internazionale. L'ennesima morte del Mullah Omar. Sapete che è stato annunciato dagli Stati Uniti, è arrivata la notizia che il Mullah Omar, sarebbe capo talebano, sarebbe morto addirittura 2 anni fa, che però ora, solo ora, si può dire, perché solo ora c'è la certezza. Allora, alle pagine 14 e 15 trovate gli articoli di Pedro Del Re e poi appunto l'analisi di Renzo Guolo. Il Messaggero titola sulla quello che è successo a Fiumicino, rogo doloso il caso Fiumicino, ma c'è anche un richiamo all'ennesimo capitolo del malaffare nella capitale, perché c'è anche un'inchiesta sul porto turistico di Ostia, di cui si è avuta notizia ieri, e il presidente appunto del porto turistico è tra le quattro persone arrestate ieri. In prima pagina anche un richiamo a un'altra grande riforma sul tavolo del governo, che è quella della RAI. Ieri infatti c'è stata un'accelerazione su questa riforma. La settimana prossima la RAI, salvo sorprese dell'ultima ora, avrà un nuovo consiglio di amministrazione. Si è deciso di accelerare sulle nomine utilizzando la legge vigente, senza aspettare la riforma vera e propria. E scrive il Messaggero, ci sono state subito le reazioni irate di Forza Italia e Movimento 5 Stelle. La prima pagina del Messaggero, vi segnalo anche un intervento di Oscar Giannino, che appunto scrive sul Messaggero, e non devo neanche presentarlo agli ascoltatori di Radio 24, e riguarda la questione della quella che viene definita la battaglia del Vaticano sull'IMU. Sapete la sentenza della Cassazione che ha decretato che non sarebbe legittima l'esenzione concessa finora alle scuole cattoliche per la tassa sull'edificio, quindi l'equivalente dell'IMU. C'è una questione anche sulle scuole paritarie, e quindi il titolo: paritarie e privilegi, la battaglia sbagliata del Vaticano sull'IMU. La Stampa titola sul caso Azzollini, ha la stessa fotonotizia del Corriere della Sera, cioè quella dell'aereo Alitalia con sullo sfondo il fumo. Ma anche oggi, perché veramente è difficile, lo dico spesso, scrivere, avere delle rubriche giornaliere come quelle di Massimo Gramellini, è difficile azzeccarla tutti i giorni. Secondo me sono 3 giorni che appunto la azzecca. Allora magari mi perdonerete, ma per il terzo giorno vi leggo appunto il buongiorno di Massimo Gramellini, che è dedicato a quella vicenda che ieri aveva solo il secolo XIX e oggi invece hanno tanti giornali, quella del leone simbolo del parco più importante dello Zimbabwe, che è stato ucciso da un cacciatore americano. Il titolo è Il cretino della savana. Il bipede Ridens a sinistra nella foto, trovate questa foto nella rubrica, è un cretino. Si chiama Walter Palmer, fa il dentista in Minnesota e ha speso $55,000 di carie per arrivare a scattare questa immagine che lo immortala accanto alla sua preda. Il leone simbolo dello Zimbabwe, da lui ucciso in un parco naturale con l'aiuto di 2 bracconieri. Una bravata che ha già provocato i primi sconquassi nell'ecosistema. L'altro leone dominante del parco sta infatti cominciando a sbranare i cuccioli non più protetti dal defunto. La sollevazione contro il cretino è mondiale e qualcuno si lamenta. Possibile che la sorte di un leone della savana ci strazzi il cuore più di quella di un bambino che salta sopra una mina? Naturalmente no. Ma le guerre sono fenomeni complessi di fronte ai quali, purtroppo, ci si sente spettatori impotenti, mentre un cretino singolo, che va a rompere pesantemente le scatole alla natura per farsi una foto da mostrare agli amici durante un picnic in Minnesota, ci appare una minaccia più contenuta e arginabile. Per esempio, concedendo a qualche leone superstite la possibilità di una rivincita contro il cretino da disputarsi al Colosseo, sempre che gli scioperi della metro consentano al leone di arrivarci. Ma vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano che titola Azzollini, il suicidio del PD. E ci sono anche tutte le varie, c'è la vignetta di Vauro dedicata a questa vicenda e c'è anche la cattiveria di Spinoza, insomma un po' di ironia, ma era diciamo prevedibile che il Fatto Quotidiano su questa a questa vicenda dedicasse molto spazio, perché è uno degli sport preferiti del Fatto Quotidiano, legittimo assolutamente per carità, quello di mostrare e mettere il dito nella piaga, nelle contraddizioni del Partito Democratico. E poi vi segnalo a pagina 11 in marcescibile Enrico Letta che torna con un editoriale, si è dimesso, sapete, poco più di una settimana fa da parlamentare per andare a fare l'insegnante in una scuola francese, in una scuola universitaria francese, e in questo intervento, che poi magari se ci sarà tempo leggeremo in parte, dice ci meritiamo di meglio che House of Cards, perché adesso è fuori uscito e anche lui giudica subito, diventa giudice del partito di cui ancora fa parte in realtà, ma di cui anche è stato esponente di punta e che è, tra l'altro, appunto, come vi dicevo, fino a una settimana fa era anche parlamentare. A proposito di ironia e forse di Foglio, si potrebbe dire chi di ironia ferisce, di ironia perisce, scusate, ma a proposito di Fatto, sul Foglio c'è invece oggi la rubrica di Maurizio Crippa, che è dedicato a Marco Travaglio. Sapete, nei giorni scorsi Travaglio ha avuto qualche disavventura sui treni, come è capitato credo a ciascuno di noi, le ha raccontate, poi ha raccolto le lamentele dei lettori, e allora scrive Maurizio Crippa: se il libro dell'estate è quella sola di Della Ferocia, è un libro, un bestseller di questi giorni, e se il disco per l'estate è quella Nenia generosa del puffistico Allevi, ne abbiamo parlato ieri, l'inno che Allevi ha composto per la Serie A, non resta che ringraziare la musa Calliope per aver baciato Marco Travaglio e averlo trasformato nel Mark Twain che è. Il raccontino sul giorno di ordinario a Frecciarossa è stato un successone e ieri c'era il sequel dilatato. Sono stato alluvionato dai messaggi di amici e lettori impazienti di denunciare le proprie disavventure. E allora dai, ecco un paginone di racconti dei deportati. Volano porte, un carro bestiame, c'è pure Bassolino nella carrozza come sardine. Questa sì è letteratura. È ben vero che i romanzi d'appendice offrono spazio alle digressioni, così ci sarebbe da scrivere anche altro. Che li capiamo i lettori amici di Mark. L'hanno preso in quel posto sulla trattativa, l'hanno preso in quel posto sul Quirinale, ora l'hanno dolorosamente preso sempre nello stesso posto, pure su Azzollini. Vuoi che non si senta il bisogno di sfogarsi un po'? E allora perché non scatenarsi in una campagna su un nemico pubblico altrettanto odiato ma più abbordabile, tipo il Frecciarossa? Roba da ricchi, scusate la parola, stronzi. Varoufakis, per dire, arriverebbe in moto oppure alla festa del Fatto. È come se fosse saltato il tappo di un'esasperazione troppo a lungo covata. Sì, è saltato. Aspettiamo golosi la prossima puntata. E se possiamo da lettori, per il terzo episodio sarebbe ora che l'onnisciente narratore facesse parlare la controllora Capò. E appunto vi dicevo, chi di ironia ferisce, poi magari chi di ironia perisce. Ci risentiamo subito dopo la pausa per le altre prime pagine dei giornali. In primo piano. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali e siccome stanno arrivando alcuni messaggi sulla questione di Azzollini, avete visto che quasi tutti titolano sul fatto che il PD sarebbe spaccato da questo voto che ha salvato il senatore Azzollini dall'arresto, e vi segnalo a questo proposito l'articolo di Maurizio Crippa, abbiamo letto la sua rubrica ironica ma qui invece è molto più serio, il titolo dell'articolo è «Si processano i reati, non la politica», e la posizione del Foglio è chiarissima, cioè che il voto è tutto sommato giusto, il garantismo nel senso buono della parola. Ci spiace, non si mette sotto controllo l'attività parlamentare. Niente arresto per Antonio Azzollini e sacrosanto ceffone del Senato alla procura di Trani. Cronaca di uno scontro culturale che colpisce l'identità del PD. Interessante appunto soprattutto per gli ascoltatori, sono arrivati questi messaggi che vi dicevo che sulla questione stanno riflettendo. La prima pagina dell'Unità. Anche oggi, se me la raccontassero e non la vedessi, forse non ci crederei, perché nel giorno appunto del voto a Azzollini, ed è evidente, visto che due vice segretari hanno pareri così diversi, che c'è un problema nel PD dopo questo voto, ma l'Unità, che è il giornale di partito, e pensate che accanto al bel simbolo rosso c'è ancora scritto fondata da Antonio Gramsci nel 1924, titola su La banda larga, con anche un titolo immaginifico come quelli che, come una specie di tentativo di imitare il manifesto. Arriva la banda, punto esclamativo, ed è larga, tutta pagina. La fotonotizia è addirittura dedicata a un'intervista a un parlamentare emergente della sinistra inglese, che credo in Italia nessuno abbia mai sentito nominare, si chiama Un, e ci spiega qual è la rivoluzione che serve al Labour, cioè alla sinistra inglese e quindi anche alla nostra. Poi, sparsi per la prima pagina, ci sono le altre notizie che, come vi dicevo, secondo me sono notizie del giorno, poi a maggior ragione sono le notizie che dovrebbero interessare a un giornale che è il giornale del PD, cioè quella di Azzollini, il titolo è Niente arresto, polemiche, accuse, e poi quella sul rogo di Fiumicino, furia di Renzi, pronti a lasciare. E questa è la prima pagina dell'Unità. L'Avvenire e il Manifesto fanno una scelta molto diversa, entrambi aprono sulla questione che vi dicevo della crisi che c'è nel tunnel che unisce che sostanzialmente porta le persone da Calais, cioè in Francia, verso Londra. Ieri c'è stata una vittima, sono state fermate 37.000 persone e purtroppo si pensa a un altro muro, perché c'è proprio il problema di come evitare che chi vuole passare dalla Francia alla Gran Bretagna, perché la direzione è questa, si infili in questo tunnel aggirando controlli o magari approfittando del fatto che in alcune zone i controlli non ci sono, come se non ci fosse una frontiera. Dai campi francesi pressioni sulla Gran Bretagna e l'Avvenire poi ricorda che a Milano ieri il cardinale, l'arcivescovo di Milano Scola, ha visitato un centro invitando le parrocchie ad accogliere gli immigrati e quindi a risolvere almeno in parte il problema appunto degli immigrati che stanno arrivando anche a Milano. E questa è la prima pagina dell'Avvenire. E il Manifesto, tunnel senza uscita, quindi stessa questione, in migliaia a Calais fuori dalla tendopoli per raggiungere la Gran Bretagna. Un sudanese muore schiacciato da un camion, decine di feriti e 200 arresti. Un migrante egiziano è stato invece fulminato in una stazione di Parigi. Questo è un altro fatto di cronaca di ieri. La Fortezza Europa si preoccupa per le merci e mobilita le truppe. In Calabria intanto un accenno anche, come vi dicevo prima, la questione dei migranti continua ovunque, a Calais, al confine con la Francia e l'Italia, soprattutto naturalmente nelle nostre regioni del sud, la Calabria, la Sicilia e poi sulle coste greche. Non ne diamo mai notizia, però invece il Messaggero, il Manifesto mette un po' tutto insieme e ci dà anche questa notizia che in Calabria sono arrivati 692 naufraghi e a Messina anche 14 bare. E poi anche le altre notizie che dicevamo, Azzollini e anche un aggiornamento sulla crisi greca. Il giornale ha un titolo ancora diverso, ne avevamo accennato nei giorni scorsi, cioè sul fatto che questo nuovo gruppo costituito dal fuoriuscito dal partito da Forza Italia, Denis Verdini, abbia già diritto a una parte di finanziamenti pubblici, e questo sul giornale questo titola: Ale, 590.000 euro ai traditori che salvano Renzi. Nasce ALA, il gruppo dei verdiniani, nato per blindare la maggioranza che già mette le mani sui fondi del Senato. E poi la notizia di Azzollini. Poi mi diverte perché ieri sul Messaggero avevo trovato questa notizia, poi non avevo avuto il tempo di segnalarla, ma la notizia era che, non so bene come tra l'altro, ma comunque qualcuno ha ottenuto copia del testamento di Mario D'Urso, il diplomatico, viveur, protagonista della società romana e non solo, grande amico di Gianni Agnelli, insomma un personaggio poliedrico, molto presente a feste eccetera, ma anche una persona di grandissimo spessore culturale, e è scomparso di recente, e nel testamento 500.000 euro sarebbero destinati a Fausto Bertinotti e a sua moglie. Fausto Bertinotti, ex segretario di Rifondazione Comunista, e questa notizia poi oggi viene ripresa da molti giornali, tra cui il giornale che la mette in prima pagina: Bertinotti eredita una fortuna dal numero uno dei salotti chic. Vi segnalo sempre perché davvero la trovo un'iniziativa bellissima, è iniziata domenica questa iniziativa estiva del giornale, che pubblica lettere d'amore di personaggi famosi, viventi e non viventi, e poi una specie di replica impossibile invece di qualcun altro, in generale uno scrittore. Oggi è la lettera d'amore della scrittrice Anaïs Nin, e la replica si intitola Ti bramo, il termometro scoppierà, e l'altro è la replica di Massimiliano Parente, lo scrittore: Donna di carne, come non ne fanno più. Libero titola in realtà su Marino, c'è Marino, una foto di Marino sorridente con tutti i denti in vista, e però il titolo è L'uomo che terrorizza Roma, con l'accenno a quei fatti di cronaca che vi ho citato ieri, cioè sequestrato il porto di Ostia per associazione delinquere, ATAC, la società che gestisce il trasporto pubblico a Roma, in piazza contro l'assessore nominato da un giorno. Sapete che nel rimpasto uno dei nuovi assessori è l'assessore ai trasporti. Incendio doloso a Fiumicino, all'Italia minaccia di mollare l'hub. Scandali mafia capitale, giubileo commissariato, 8 assessori in fuga, 3 rimpasti in 3 anni, critiche da tutto il mondo, e lui felice dice siamo un modello. Anche in questo caso in prima pagina la vicenda dell'eredità di Mario D'Urso, l'amico dei ricchi e nobili, lascia 500.000 euro a Bertinotti. E poi il Libero torna anche sulla questione Crocetta, ne abbiamo parlato tanto ieri, io spero che si continuerà a parlarne finché non venga veramente fuori la verità. E comunque sapete che a questo punto siamo al punto che i due giornalisti che avevano scritto l'articolo in cui si citava un'intercettazione in cui Crocetta sarebbe rimasto colpevolissimamente silenzioso di fronte alle parole del suo medico personale Marco Tutino, attualmente agli arresti domiciliari, che aveva detto Lucia Borsellino deve fare la fine di suo padre, ecco, secondo l'articolo di Giacomo Amadori si delineerebbe in questo momento un vero complotto contro Crocetta. Ecco tutti gli indizi, trovate l'articolo a pagina 9. L'ultima prima pagina, quella della Gazzetta dello Sport, che ha una lunghissima intervista alle pagine 2 e 3 a Adriano Galliani, il titolo Boom Boom Galliani, il Milan fuori dalla Champions sarebbe un vero insuccesso. Bilancio e progetti dell'amministratore delegato che proprio oggi compie 71 anni. Parla di tutto, di Barbara Berlusconi e Ibrahimovic naturalmente, Maldini e Inzaghi. Il mio errore, cedere Pirlo, e poi schiera la sua squadra rossonera ideale. Poi naturalmente tantissime notizie sulle amichevoli dell'estate e anche sul calciomercato. Vi dicevo, dalle pagine interne del Corriere della Sera, questa intervista a Ignazio Marino di Sergio Rizzo, che trovate a pagina 7. Vi leggo alcune delle domande e risposte che mi hanno colpito di più. Sapete che Marino aveva detto faremo entrare delle aziende private nell'ATAC, l'ATAC, l'azienda del trasporto pubblico, quella che credo diventerà il benchmark per come non deve essere un'azienda di trasporto pubblico. E quindi Sergio Rizzo gli chiede, perdoni la franchezza, ma sfido chiunque a mettere un solo euro in questa azienda. Marino risponde, le cose devono cambiare, sicuro. Un macchinista della metro a Milano guida 1150 ore l'anno, a Napoli 950, a Roma 736. E lo sciopero bianco esplode quando Marino, perché Marino parla di sé in terza persona, lo trovo fantastico comunque, lo sciopero bianco esplode quando Marino chiede di timbrare il cartellino. Questa è la risposta di Marino. Forse i viaggiatori non lo timbrano tutti i giorni, il loro cartellino? Altra domanda di Rizzo. Le ricordo lo scandalo dei 700 vigili assenti la notte di Capodanno, aveva promesso fuoco e fiamme, non uno di loro è stato sanzionato. E Marino risponde, colpa delle norme assurde che regolano la materia, ma stia sicuro che le sanzioni prima o poi arriveranno, sia per i vigili sia per i medici che hanno fatto i certificati falsi. Cioè ci chiede un ulteriore atto di fede. Altra domanda, lei non aveva capito che c'era il malaffare, ricordo la sua promessa di regalare il primo stipendio a Buzzi, che sapete Buzzi è uno dei grandi burattinai degli scandali di mafia capitale e attualmente è in carcere. Ero in campagna elettorale e lei avrebbe fatto lo stesso, risponde Marino a Sergio Rizzo. Buzzi era il simbolo del recupero dei carcerati, il giorno della sua laurea c'era anche il Presidente della Repubblica. Dice che non mi ero accorto di nulla. Allora mi spieghi perché dopo solo 4 settimane scrissi al Premier Enrico Letta chiedendo di mandare gli ispettori perché qui si era rubato. Quando arrivarono scoprirono che pagavamo 4.080 euro un software dei computer che non ne valeva più di 500. E vabbè, se qualcuno si diletta di logica potrebbe analizzare questa risposta e dire come. Dice che gli voleva regalare lo stipendio, però che si era anche accorto che rubava. Una delle due cose non può essere vera. In ogni caso, questo è l'uomo Marino. L'ultima domanda e risposta che vi leggo, Sergio Rizzo chiede, il degrado della città è finito perfino sul New York Times e Le Monde. E qui la risposta di Marino è, secondo me, fantastica. A queste cose dovreste reagire voi della stampa italiana. È chiaro che si tratta di una strategia per danneggiare l'Italia nel momento in cui si è candidata alle Olimpiadi del 2024. Guarda caso con la concorrenza americana e francese. Ecco, sostenere che New York Times e Le Monde, due dei giornali più indipendenti che io conosca, che io conosca e che io legga, farebbero parte di un complotto per screditare l'Italia, perché anche i loro paesi sono candidati alle Olimpiadi, città dei loro paesi sono candidati alle Olimpiadi del 2024. Io lo trovo talmente ridicolo che, e tra l'altro, per dirvi la serietà del New York Times, un giornalista che aveva semplicemente inventato una parte dell'articolo per ricollegarci invece ai giornalisti dell'Espresso che sono accusati di calunnia e pubblicazione di falsa notizia, quel giornalista è stato licenziato in tronco e gli è stata anche tolta la pensione. Altra notizia che ho letto su internet prima di arrivare qui: il direttore di Rolling Stone si è ritenuto colpevole del falso scoop sugli stupri nei college americani, forse lo ricorderete, si è dimesso. Ecco, questo è l'etica giornalistica del New York Times, eccetera. E secondo Marino il New York Times scrive male di Roma perché per ostacolare la candidatura di Roma alle Olimpiadi, senza senso davvero, se volete, appunto, questa è la mia opinione conoscendo un po' com'è il New York Times. Ma torniamo sul Sole 24 Ore e sulla grande questione, sulla grande notizia finanziaria, quella di Italcementi. Vi dicevo, ieri c'è stato questo volo in borsa, definito appunto così nell'articolo di Marigia Mangano. Il titolo ha guadagnato il 49,5% dopo la notizia che appunto passerà alla Heidelberg tedesca. Tra l'altro ieri c'erano anche i conti semestrali e proprio ieri nella semestrale si è stato evidenziato un ritorno all'utile. Vi segnalo l'analisi di Antonella Olivieri, sempre a pagina 3, i destini paralleli di due gruppi familiari divisi dal passaporto, cioè il gruppo la famiglia Pesenti che controllava Italcementi e la famiglia tedesca che controlla Heidelberg e ora ha dato vita a questo colosso. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche il supplemento Casa 24, che è in edicola ogni giovedì con il Sole 24 Ore. In realtà dalla prossima settimana ci sarà una pausa estiva, ma poi tornerà a settembre naturalmente, la copertina dedicata ai resort che nascono intorno ai golf. Più Esterlo per la casa nel golf club, funzionano i resort dedicati alla clientela internazionale. In Italia però la domanda cala, quindi un approfondimento su questo sport di cui forse non si parla molto ma che ha tantissimi cultori. Ci fermiamo un attimo per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della rassegna stampa. Continuano ad arrivare tanti messaggi, in particolare un'ascoltatrice che dice che è palese il mio essere contro il Fatto Quotidiano. Vorrei veramente chiarire questo, forse sono stata poco chiara. Ho detto che è meritoria l'opera del Fatto Quotidiano sulla questione delle contraddizioni del PD e su tantissimi altri fatti. Quello che contesto a volte, che credevo fosse chiaro oggi, ma meglio chiarire meglio, è l'uso un po' esagerato dell'ironia da parte del suo direttore Marco Travaglio, che a volte, appunto, come ho detto, che chi di ironia ferisce, di ironia perisce. Io preferisco sempre l'ironia, è una cosa bellissima, aggiunge leggerezza spesso a discussioni un po' troppo pesanti, però a volte appunto poi il troppo stroppia, ma questa è naturalmente la mia opinione, ma ho il massimo rispetto per il lavoro che fa il Fatto Quotidiano dal punto di vista giornalistico di inchiesta. Detto questo, torniamo un attimo sul Sole 24 Ore e col pensiero a Mauro Meazza guardiamo al dorso di Norme Tributi, che oggi ha un approfondimento sulle indagini finanziarie e sugli accertamenti che sono in frenata. I contribuenti sottoposti ai controlli bancari dalle entrate sono calati del 39% sul 2012. Gli interventi sono sempre più mirati sulle situazioni a rischio e la sanzione sui prelievi non si applicherà agli autonomi. Tutti gli approfondimenti sulla prima pagina di Norme Tributi. E anche, per appunto parlare di fatti più che di polemiche, la questione dell'IMU nelle scuole. Ieri il ministro Padoan alla Camera ha detto non c'è bisogno di cambiare ancora le regole. Lo ricordiamo, la discussione è stata riaperta da una sentenza della Cassazione, non da un intervento del governo. Il ministro dell'economia respinge le ipotesi di nuovi interventi ventilate nei giorni scorsi, e qui c'è proprio uno schemino che ci spiega in questo momento quale sia la situazione di questa tassa sugli edifici che devono pagare le scuole. Dalla Repubblica vi segnalo un approfondimento su Galan, l'ex governatore del Veneto, sapete, agli arresti domiciliari perché è accusato di aver preso le tangenti gigantesche sul Mose e su altre cose. Alla Zanzara, forse lo avrete sentito, ha pianto miseria e non era la prima volta che lo faceva, dicendo che non ha più soldi neanche per pagare le spese di manutenzione della sua gigantesca casa vicino a Venezia. Adesso la Repubblica si concentra su quella che viene definita l'ultima beffa di Galan. Dopo il patteggiamento gli spetta il vitalizio, perché ricordiamo che ha patteggiato, quindi patteggiare vuol dire naturalmente dichiararsi colpevole, se no non si può accedere a questa via d'uscita da un processo. Per il Mose, assieme a Chisso, dovrà scontare 2 anni e 6 mesi per corruzione, pena troppo breve, e quindi non scatta il blocco al vitalizio che gli spetta in quanto ex parlamentare. Era anche presidente della commissione cultura, si è dimesso da poco, per dire insomma quanto questo galan ancora avesse un ruolo nelle istituzioni. Dal Messaggero vi segnalo un interessante approfondimento su una questione che riguarda tantissimi italiani, cioè quella dei rimborsi sulle pensioni. Sapete che il governo Monti aveva attuato questo blocco sull'aggiornamento delle pensioni, una sentenza della Cassazione ormai famosa ha sbloccato questo blocco, e quindi adesso si riassume la questione, perché da lunedì 3 agosto, con la mensilità di agosto, verranno appunto dati ai pensionati gli arretrati per la mancata rivalutazione. C'è tutto uno schema che spiega come. E a proposito di sanità, dal Messaggero, un fatto di cronaca molto significativo: c'è stato un concorso a Parma per infermiere, al concorso pubblico si sono presentati in 7.000 neolaureati e precari giunti da tutta Italia nella speranza di un contratto a tempo indeterminato. E anche questa, insomma, la situazione della sanità in Italia. L'Avvenire, oltre a mettere in prima pagina, unico giornale insieme al Manifesto, a titolare proprio sulla questione dei migranti tra Francia e Gran Bretagna, come abbiamo visto, anche un approfondimento sull'emergenza carceri: suicidio, sovraffollamento, strutture, estate nera dietro le sbarre. Pensate, sono già stati, oltre alle rivolte, alle aggressioni agli agenti della polizia penitenziaria, che sono già in sé fatti gravissimi, ci sono anche stati già 26 suicidi. Ma c'erano tante altre cose che avrei voluto segnalarvi, ma passiamo magari a argomenti un po' meno di cronaca, ma comunque molto interessanti. Dal Foglio, una pagina intera sui curdi, intitolata La maledizione dei curdi. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di questa offensiva del governo turco contro il PKK, il partito dei lavoratori curdi, e Tatiana Boturline ci racconta: sono odiati in Medio Oriente, ma anche i nostri unici boots on the ground contro lo Stato Islamico. La Turchia li attacca, loro dicono che una roccia è forte al suo posto. Quindi questo sommario, che forse vi sarà sembrato un po' confuso, però appunto riassume un po' tutte le componenti di questo popolo, grandi combattenti, appunto stanno combattendo contro lo Stato Islamico, ma sono anche un popolo che ha subito tantissime persecuzioni, perseguitati da turchi e iracheni, disprezzati da armeni e assiri, traditi da Kissinger e da George Bush. Il PKK, ci racconta nell'articolo, appunto si è in effetto macchiato di orrendi crimini, narcotraffico, rapimenti, omicidi, ma in Medio Oriente non si intravedono santi all'orizzonte. Vi segnalo anche, abbiamo parlato degli animali abbandonati, purtroppo anche quest'estate credo che prima o poi qualcuno ci farà un bollettino, e sarà come al solito un bollettino amaro. E ieri avevamo segnalato l'articolo, l'approfondimento di Laura Snaghi su Repubblica, su questa task force che salva soprattutto cani e gatti. Adesso c'è un'altra emergenza, quella dei piccoli animali abbandonati nelle fontane, pesci rossi e tartarughe. Cioè, pensate, uno lì la sua boccia per il pesce rosso, va in vacanza, esce di casa e la svuota in una fontana pubblica. Succede anche questo. Poi una notizia di cronaca che è molto divertente per chi come me spesso segue la moda. Sapete che Jane Birkin, l'attrice francese, in realtà adesso si è un po' ritirata dalle scene, però continua a essere un'icona del cinema francese. Moltissimi anni fa, negli anni 60, aveva incontrato in un aeroporto un allora dirigente di Hermès, che aveva svuotato la sua borsa e lui aveva deciso di dedicarle una borsa. E da allora la Birkin è una delle borse più famose di Hermès. Il modello base costa qualche migliaia di euro, quella in coccodrillo sopra i 30.000, e siccome Jane Birkin sostiene di aver saputo che gli animali per farla vengono uccisi, i coccodrilli per fare queste borse vengono uccisi in modo molto crudele, ha scritto a Hermès e dice: via il nome da quella borsa, pare solo dal modello in coccodrillo. Ma Hermès ha risposto: in realtà faremo verifiche sui nostri fornitori, noi non uccidiamo gli animali con crudeltà. Però sta di fatto che comunque sicuramente è una questione abbastanza complessa, però insomma le borse di coccodrillo sono fatte con coccodrilli che spesso non sono neanche di allevamento, perché naturalmente quelli più pregiati, così come per gli animali da pelliccia, sono quelli in realtà che vivono liberi. Vi segnalo da Repubblica, una delle ultime segnalazioni che riesco a farvi, un articolo di Jenner Meletti dedicato a Giovanni Gaio. Cioè, è un uomo che ha una super memoria. C'è anche un telefilm, non so se l'avete visto, dove c'è una poliziotta con questa super memoria, ma quella è finzione, questa è realtà. È una sindrome che si chiama ipertimesica. È un ingegnere di 32 anni che è un calendario vivente. I risultati dei test a cui si è sottoposto sono stati definiti eccezionali da scienziati americani, ma forse è anche un incubo dover ricordare tutto. Ci sono delle cose che vogliamo dimenticare in breve. breve. Ultimissima segnalazione prima di dare la parola a Irene: due cose su Twitter, di cui si discute tanto, questo social network. Sulle pagine di Repubblica parla il direttore di TED, sapete, quello delle conferenze dove si spiega tutto. Tra un tweet e un post è il vero secolo breve, quindi una critica a queste forme di comunicazione troppo liofilizzate. E su quella, sulla questione, anche il supplemento del Messaggero Marco, Macro, se la polemica è un cinguettio dedicato, e ne abbiamo sentite tante, alle polemiche che si scatenano su Twitter in 140 caratteri, difficile esprimere il proprio pensiero in 140 caratteri, e a cui i politici sono sempre più affezionati e appassionati. Ma adesso veramente la parola a Irene. Mi dà lo spunto questo, Giulia, semplicemente per ricordare a tutti voi ascoltatori che ci avete contattato ieri a spunti di vista @radio24.it è l'email, per ricordare che l'audio, il video, l'iniziativa che abbiamo mandato ieri in onda, tratta tra l'altro da TED, questo sito in cui le persone parlano per 18 minuti, quindi con molto più agio e molta più emozione anche di quello che accade in un tweet. E sulla pagina Facebook trovate il link, perché molti ci hanno chiesto di conoscere, di contattare questa agenzia turistica che organizza viaggi per conoscere la controparte, chiamiamola così, infatti a parlare un palestinese, e organizza viaggi in cui porta turisti di, non so, ebrei di Chicago, questo è l'esempio che faceva ieri, a mangiare nei campi profughi palestinesi. Nascono delle amicizie che durano per anni, nascono delle amicizie che continuano molto a lungo, e sostiene questo ragazzo che ha creato questa particolare agenzia turistica che questo è il modo di viaggiare del futuro, perché abbatte i muri. Grazie a Giulia Crivelli con la rassegna stampa. Si torna domani con spunti di vista tra pochissimo. Ora la linea al notiziario.